Bacchisio! Attenzione, Bacchisio! Bacchisio! Pronto? Eia! Vabbè! Vedi, S2, basso! Con l'altro? Rimani però con quelle cose lì, con questa configurazione. Guarda, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, sono sempre nello stesso punto. 3 punti, 4, vabbè, non smettere di cacca questo, prova di nuovo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Aspetta che vedo un altro. Cadetta. Ciao Lu, stiamo facendo delle prove con Antonio. Vedi un po', no, adesso, prova. Stappa bene. Ciao Mari. Buonasera, circolare. Ciao a tu. Va bene tu? Giomani. Va bene. Sta facendo delle prove tu. Anche lo sentivo, a fondo scala qua. Anche lo sentivo, da fondo scala qua. Beh, Lucrezia. Ciao Mari, e che facendo c'è? Esatto, è lui il pensamento, Luca, chissà, vuoi andare in tournée, invece già sei ancora qua. Adesso vediamo un attimino. Ciao Gianmarì, buonasera. Esatto, buonasera, ben sentito. Un pochettino avaro di smittere, sto verificando, dai. Poi ti faccio sapere, ok? Ehi, Anto. Beh, ti sta arrivando. Aspetta, qua non me lo segna, aspetta un attimino che cambio, un attimino, dammi qualche secondo che devo commutare. Sì, fai. Non c'è mai nessuno, Gio Mario, sto lì a chiamare, c'è qualcuno dentro, se no pazienza. Sì, ma guarda, io sono sempre l'ascolto, è sempre acceso qua, e se chiamano rispondo, se non chiama nessuno, qualche volta qualche colpo importante, però non sa fare nessuno. Vedi, 3 arrivi qua, 3 punti S. Ma Luca che me lo pippanti oggi, Luca. Ma chi io? Oh, flippa. Giovanni. Che me lo pippanti oggi. Io? A fondo. Un'antenna di quella che avevo fatto costruita per il portatilino. Ma Antonio è a Ittiri. Sicuramente a me non mi sente, Ai ti riello. Pronto. Vai, ti ho mandato un messaggio. Cosa? Ti ho mandato un messaggio. Cos'è la manto, vai Lu? Ringraziato, Lu, l'hai sentito Lu. Luca. Ringraziato, Lu, l'hai sentito. No, oggi no. Nemmeno io, ho già avuto il tempo. Mi sono sceso un po' occupato a fare quella vista dall'ortopedico. Però adesso è tardi, non li telefono più. Infatti mi sembrava strano, perché qui era acceso ma non sentivo nessuno. Siamo uscito tardi, capito? Era pieno, così che, per carità. Cavolo, una motosega Husqvarna costa 450 euro. Ma paura. Motosega? Sì, la motosega Husqvarna 440. No, perché la stavamo vendendo nel gruppo 350. Ma quella lunga? Ma quella lunga è lì, Lu? No, quella corta. Quella da taglio, da. Ah, ho capito. Per vedere che tipo è. Comunque, grazie, ho già mandato un messaggio sia su WhatsApp che su Messenger, ma non mi ha risposto. Vuol dire che non sto visitando. A Luca forse interessa, a Flippero. Di poche parole, oggi di poche parole, Luca. Che Mary! Ed è così. Allora, l'ortopedico cosa ti ha detto? Che sei da ingessare? Ciao Mary. Lu, non ti avevo capito. L'ortopedico cosa ti ha detto? Che sei tutto da ingessare? Un risiracoso, un risiracoso. Mi pare che viso e vi rimane lì, Lu. Per carità. Giuseppe, vuoi camminare, fa movimento e basta, senza fare sforzi, ma tu ti immagini? Beh, fisioterapia devi fare, fisioterapia, certo, e beh. Gira. Si fa la campagna della rabbia, la fossi in campagna per le altre cose, si trova chi dà ragione. Hai parito, abbassami le voci tu. Che mari? Ehi, oia. Hai parato, che stai facendo, c'è? Stamattina un chilo ne ho fatto. Su male, catta. Ah, cosa fai in giro? Ah, ma questa maniera che cosa fai? Catta. Beh, non te la zocca ne hai una pargati di dinà, eh. Allora, primo giorno ne ho fatto 4 e 2, secondo giorno 3 e 6 e oggi un chilo. Un chilo e 2, là. Tutto buono, Lu, bisogna andare, oia. Bisogna buscare che cosa, catta, sino, oia, la busciacca di onda e c'è mari. Lo so, ma niente che si lamenta, cioè, non va a travaglio. Vai, invece, cioè, piglia e fai. Qualcosa si fa sempre, no? Poi io mi lavoretti da fare, qualcuno ne ho. Sta aspettando i soldi, prima di tutto, per il pezzo. Una volta lo sistemo, mi posso bagare. Infatti, certo. Ti andassi farsi, no? Cioè, senti, all'ufficio collocamento ha mandato a travagliare, c'hai freco già. Allora travaglimi. Vabbè, io gli ho fatto le domande, se mi chiamano vado. E se ho pazienza, io non aspetto allora, già mi muovo lo stesso, poco a poco, già mi muovo, Gio Mari. Non accetta nessuno, io. Piano piano, già riesco a fare qualcosina, dai. Fai bene, Lu. Devi fare così. E sai più bene, cazzo. Oia. Pippala! Ciao, se combinetti tu. Qua se prende cacchi ingegne. Se pinge niente sei chi c'ho, Mugas. Per carità. Arratti fa vita. Io lo so. Sai cosa, Gio Mari? Che se non mi muovo sono fregato. Sono fregato. Bisogna andare. Se si vuole bisogna inventarsi un travaglio. Vabbè, siamo andati tre volte nello stesso posto, ma alla fine non è che poi andassi a provare il rugu. Bisogna ciambà, ciappa un altro rugu. E ce n'è comunque, dai, ce n'è. Un attimino che hanno bussato. Cosa, Gio Mari? Un attimo, Luca. Oh, Luca, fai altro così. Beh, buonanotte a tutti, buona cena. Ciao. Vabbè, c'è nessuno? Ehi, hey, Lu! Niente, sto provando un'apparecchietta. Va bene, andiamo a mangiare, che ho fame, va. Ci sentiamo domani, Lu, dai, senta Antonio, ve lo saluti, ok? Gio Mari, va bene, a domani. Ciao, buona cena. Ok, grazie, ricambiato, ciao. A te c'è un Antonio, se vi senti? Ehi, questo è questo modello qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, vedi un po'. 1, 2, 3. Ehi, Antonio, mi senti? Prova, 1, 2, 3, prova.